le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sarebbe stato un cortocircuito, forse di un frigorifero, a provocare l'incendio nell'aeroporto di Fiumicino. Treni sospesi e strade chiuse per tutta la mattina. Caos nei voli. Il governo studia le ipotesi per coprire il buco lasciato dalla sentenza della consulta sulle pensioni. Il presidente della Corte, la politica può adottare delle misure. Intanto Camera e Senato aprono la discussione sull'abolizione dei vitalizi ai parlamentari condannati. Sit-in davanti a Montecitorio, posizioni distanti tra le forze politiche. Gran Bretagna, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, grande incertezza nei sondaggi, secondo gli ultimi nessuno arriverebbe alla maggioranza assoluta. Ligabue festeggia i 25 anni di carriera, primo disco il 7 maggio del 90 e organizza un nuovo mega concerto a Campovolo per il 19 di settembre. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, c'è la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo dell'incendio che nella notte si è sviluppato nell'aeroporto romano di Fiumicino, un incendio abbiamo preso poco fa che probabilmente sarebbe dovuto ad un cortocircuito, forse di un frigorifero, ha provocato un caos in tutta la mattinata, treni sospesi, strade chiuse, caos nei voli. Tra poco ricostruiremo tutto, parleremo anche con qualcuno dell'ENAC che ci racconterà un po' più nel dettaglio che cosa esattamente è successo. Intanto vogliamo sapere qual è la situazione a Fiumicino. Ci colleghiamo con Francesco De Remigis che si trova là. Francesco, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori, io sono all'ingresso del Terminal 3 che attualmente è stato cinturato sia dal personale della sicurezza dell'aeroporto ma anche da Guardia di Finanza e dalle altre autorità, completamente inaccessibile almeno fino alle 14 per il momento, perché al piano superiore ancora stanno verificando le dinamiche dell'incendio e le condizioni del terminal. Tutti i passeggeri sono stati dunque spostati al Terminal 2 e al Terminal 1, in particolare per le partenze che cominceranno a riprendere gradualmente dalle ore 14 in poi. Molta difficoltà, dicevi anche tu in apertura, per arrivare all'aeroporto perché l'autostrada Roma-Fiumicino è stata riaperta poco più di un'ora fa, quindi si può arrivare soltanto in treno e adesso anche in taxi e con le navette, ma il traffico è stato congestionato per molto tempo anche nelle altre arterie romane. All'aeroporto in questo momento c'è un forte odore di fumo nel Terminal 3, di bruciato, c'è il personale che gira con le mascherine in caso di necessità per i passeggeri che devono attraversare sostanzialmente il lungo corridoio prima di arrivare agli altri terminal, vengono riforniti di mascherine in caso di necessità perché l'odore di bruciato è davvero forte. Per quanto riguarda invece la circolazione, quindi il decollo degli aerei, riprenderà diciamo più avanti, mentre sono atterrati quasi tutti i voli intercontinentali partiti nella notte. Era inevitabile che questo accadesse visto che i velivoli erano già in aria e quindi in qualche modo dovevano atterrare a Fiumicino. Al momento non ci sono grosse novità per quanto riguarda le dinamiche dell'incendio, poi sentirete probabilmente il servizio. Al momento da Terminal 3 di Fiumicino, dove è ancora in corso l'ultimo controllo al piano superiore per capire le dinamiche, è tutto insomma. Grazie a Francesco De Remigis per questi aggiornamenti. Dunque sentiamo proprio il servizio sulla ricostruzione di questa mattinata. Non ce l'abbiamo, evidentemente abbiamo qualche problema in questo momento, ci ritorneremo più avanti e lo faremo anche, come vi dicevo, con qualcuno dell'ENAC che ci potrà dare qualche dettaglio in più. Intanto andiamo alle elezioni in Gran Bretagna, vogliamo fare il punto con il nostro Sergio Nava, inviato a Londra per seguire. Si vota proprio nella giornata di oggi, il rischio è per quello che possiamo definire un Parlamento appeso, sia senza un vincitore chiaro. Sergio, innanzitutto dove ti trovi? Che cosa ci puoi raccontare? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, io mi trovo in questo momento nel West End, per dare un'idea a chi ci ascolta, mi trovo nei pressi di Oxford Street, quindi pieno centro londinese, anche questa è una zona roccaforte conservatrice, quindi il premier David Cameron. Mi trovo all'interno di un seggio, è anche curioso notare come questa sia una palestra, stanno facendo le audizioni anche per Billy Elliot, per il musical, e contemporaneamente si sta votando, quindi entra gente che va a fare le audizioni, gente che va a fare ginnastica e gente che va anche invece a votare. 1200 200 gli iscritti e da quanto abbiamo calcolato da questa mattina in circa poco meno di 200 sono già venuti a votare, secondo insomma, gli il presidente del seggio è anche abbastanza in linea con le aspettative. Fra i 100 e i 150 fino adesso. Quindi un buon volume. Un buon volume, sì. Tu mi dicevi questo è un seggio comunque prevalentemente conservatore, tu rappresenti appunto, sei un attivista del Partito Conservatore e siete abbastanza sicuri di vincere qui? Sì, è una sicurezza che va quasi al 100%, anche perché negli ultimi 50 anni c'è sempre stato un chiaro margine fra i conservatori e i Labour di 4.000-5.000 voti, che l'anno scorso, no, 5 anni fa, scusa, è arrivato a 8.000, perciò per recuperare 8.000 voti in una costituenza che ha una media del vincitore che ne ha 35.000 è molto difficile, cioè i Labour si arrivano a 20.000 voti, 25 è già 25.000 è tanto. Qui siamo West End, pieno centro di Londra, però Londra è più bilanciata, se vogliamo, forse leggermente più laborista come tendenza di voto. Sì, leggermente, alle ultime elezioni hanno vinto loro. Praticamente hanno vinto loro a Londra. Sergio Nava, allora che abbiamo sentito? Avete ascoltato la voce di Christian. Christian è un rappresentante di lista italiano, un giovane italiano rappresentante di lista qui il Partito Conservatore, che quindi dalle 8 di stamattina ha contato praticamente gli ingressi e anche preso i numeri di tessera elettorale degli elettori per poi per le prossime campagne elettorali, perché qui funziona così, si prendono i numeri di tessera in modo sì. Poi da diciamo contattarli in vista delle prossime elezioni. Abbiamo però anche ascoltato Felice, italiana di origine di Napoli e è venuta a votare per lei invece votato laborista, sentiamo. Labour? Quindi voterà laborista. Mm-hmm. Cosa ne pensa di queste elezioni? Tutto promettono tante e poi alla fine quando salgono non fanno quelli che dicono. Quale partito l'ha convinta di più come promesse elettorali? 5 anni fa ho votato per questo qua che sta adesso voglio votare per quell'altro alto, non mi ricordo il nome, quell'altro. 5 anni fa ha votato conservatori, ora intende votare laburista. Sergio, allora, hai altro da farci ascoltare? Sì, l'ultima intervista è quella a Liam. Liam è invece il presidente di seggio. Sentiamo brevemente cosa ci dice. It's steady. Mm-hmm. It's steady. It's not, we're not rushed. Okay. Ecco, se mi potete sentire quello che dice Liam, gli abbiamo chiesto appunto un po' come andava il numero di elettori, l'afflusso ai seggi, a questo seggio, ci ha raccontato che ci sono 1200 iscritti come vi dicevo prima e tutto sommato diciamo l'afflusso era in linea con le precedenti elezioni del 2010. Voglio solo ricordare che tutti i principali leader inglesi oggi sono andati a votare, una sola ha votato a Londra ed è la leader dei Verdi, tutti gli altri invece sono sparsi in giro per il paese nel proprio collegio elettorale, perché qui funziona così, si vince nel proprio collegio elettorale, quindi si fa campagna fino all'ultimo nel proprio collegio elettorale, altrimenti non si va neppure in Parlamento. Il più mattiniero è stato Nigel Farage, che ha votato invece a South Tennet, dove veramente si gioca la sopravvivenza politica, se non entra in Parlamento Farage si dimetterà. Grazie Sergio Nava per questi aggiornamenti, Sergio Nava che continueremo a sentire nell'arco della giornata e nelle prossime ore, anche per avere un quadro dei risultati appena li avremo. L'Italia ci porta a parlare di pensioni e vitalizi, innanzitutto pensioni per i dubbi che animano ancora il governo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla mancata rivalutazione delle pensioni 3 volte il minimo, il conseguente buco nei conti, vitalizi, quelli dei condannati, perché oggi Camera e Senato ne discutono. Partiamo da qua, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. La questione entrerà nel vivo a partire dalle 14, quando in contemporanea si terranno gli uffici di presidenza di Camera e Senato. Con molta probabilità la maggioranza dei gruppi parlamentari dirà sì alla proposta di delibera messa a punto dai presidenti Grasso e Boldrini, un testo che prevede l'abolizione del vitalizio per i parlamentari condannati in via definitiva a più di 2 anni per reati di mafia, terrorismo e quelli contro la pubblica amministrazione, eccezion fatta per l'abuso d'ufficio. No al vitalizio anche per coloro che hanno subito in generale condanne superiori ai 6 anni. Temi a parte comunque considerati anche quelli del patteggiamento e della riabilitazione. Quanto alle forze politiche non mancano le resistenze interne, a partire dallo stesso PD. Dubbi dal senatore Sposetti, non lisciamo il pelo all'antipolitica, dice. La sua è una posizione personale, replica il capogruppo Zanda. Sul punto sembra però che Renzi sia stato molto chiaro, le elezioni regionali sono dietro l'angolo e le 500.000 firme raccolte dalla campagna promossa vada libera sono indicative, secondo il Presidente del Consiglio, di quanto il tema sia sentito dall'opinione pubblica. Quindi per il Premier è meglio non perdere tempo. Stop dei vitalizi per tutti, dicono dalla Lega, dubbi dai centristi della maggioranza. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. A proposito di vitalizi, o meglio di pensioni, il governo in queste ore sta cercando di affrontare con qualche difficoltà la questione della sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto bocciato lo stop alla rivalutazione per le pensioni tre volte il minimo che c'è stata nel 2012 e nel 2013, lo stop che c'è stato nel 2012 e nel 2013. Davide Colombo del Sole 24 Ore, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Quali soluzioni si potrebbero profilare? Ma le soluzioni sono diverse, sicuramente la sentenza ne indica anche la strada, perché la sentenza parla di una mancata insufficiente motivazione sul provvedimento che ha appunto congelato l'indicizzazione delle pensioni sopra tre volte il minimo nel 2012 e nel 2013 con il decreto Salva Italia. Quindi evidentemente si lavorerà partendo da lì, si tratta di capire poi che tipo di gradualità e quali fasce potrebbero essere individuate. Alcuni esponenti del governo ieri hanno fatto trapelare l'idea che non verrà restituito a tutti i 5,5 milioni di pensionati l'indicizzazione perduta in quel biennio. Bisogna vedere che scelta politica si farà. Per fare un solo esempio, se si decidesse di restituire l'indicizzazione perduta ai pensionati che si trovano tra 3-4 volte il minimo, si tratta di 2.200.000 individui. Se si sale di un'altra soglia, da 4 a 5 volte il minimo, si aggiunge 1 milione di persone. Ecco, io penso che alla fine la scelta dovrebbe avvenire su queste soglie oppure con una gradualità, cioè un rimborso frazionato per una aliquota percentuale di una parte dell'assegno. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore, di questo torneremo a parlare più avanti. Abbiamo intervistato questa mattina il costituzionalista Augusto Barbera proprio per parlare di questo tema, per avere anche un suo giudizio sulla sentenza della Corte Costituzionale. Un ascoltatore ci scrive sul blocco degli stipendi pubblici fermi da 6 anni, che anche questi hanno sofferto lo stop all'indicizzazione e all'inflazione. Ebbene, anche questo è un tema, perché nei mesi scorsi i sindacati hanno presentato dei ricorsi che forse a questo punto arriveranno anche alla Corte. Anche di questo abbiamo parlato con Barbera, ci torneremo tra poco. Questa mattina intanto giro di incontri sulla riforma della scuola tra i sindacati e il Partito Democratico. Maria Piera Ceci, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, vista l'adesione allo sciopero di martedì, che abbiamo ampiamente raccontato qui su Radio 24, Renzi lo aveva promesso e sta rispettando in qualche modo la promessa. Sta infatti incontrando i rappresentanti del mondo della scuola per capire che aggiustamenti apportare al disegno di legge della buona scuola, che proprio non va giù a gran parte degli operatori della scuola. In realtà il Premier non è presente a questi incontri. Ieri ha visto lui stesso i parlamentari del PD e i presidenti delle commissioni interessate per fare il punto. Poi ha lasciato ad altri del suo partito il compito di discutere con studenti e sindacati. Ieri sera è stata la volta degli studenti. Poco fa invece si è concluso l'incontro con il segretario generale Marco Paolo Nigi della SNALS e con il coordinatore nazionale della Gilda Rino Di Meglio. Abbiamo raggiunto poco fa quest'ultimo. Il fatto che ci sia finalmente un po' di ascolto è sicuramente positivo, perché in questi mesi l'ascolto è mancato. Non c'è comunque, quello che abbiamo capito, nessuna intenzione di stralciare il decreto per l'assunzione dei precari, come noi chiediamo, e di ragionare con calma su tutto il resto. Intendono comunque andare avanti. Non abbiamo trovato disponibilità a modificare alcune delle norme che ci sono più vise, che la questione del potere di assunzione diretta del preside verso gli insegnanti e la questione degli albi territoriali. Su questo non abbiamo trovato disponibilità al cambiamento. C'è stato solo un tentativo di spiegare a noi che nella scuola ci viviamo come funziona la scuola, e in realtà noi riteniamo di saperlo meglio di loro. Stamattina, secondo la Gilda, non è andata un granché. Oggi pomeriggio saranno ricevuti i sindacati confederali, ANEF e COBAS. Intanto, questa mattina, Simone, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato la percentuale di adesione del personale allo sciopero nazionale contro il DDL della buona scuola, lo sciopero di martedì appunto. La percentuale è stata molto alta, quasi del 65%. Su oltre 1 milione di dipendenti in servizio sono stati 618.000 quelli che hanno aderito all'agitazione, per un totale di trattenute sulle retribuzioni di oltre 42 milioni di euro. Insomma, un bel risparmio anche per lo Stato, però non si sa esattamente quanti siano gli insegnanti fra questi 618.000. Grazie a Maria Pera Ceci per questi aggiornamenti. Vedremo come finiranno, insomma, queste discussioni tra il Partito Democratico e gli insegnanti. Una notizia arrivata da poco e che è molto importante, farà discutere: il TAR del Lazio ha sospeso la dichiarazione dello stato di emergenza per la diffusione in Puglia del batterio Xylella e il piano di intervento previsto per fronteggiare il rischio fitosanitario. Quindi il piano, che comprendeva anche in parte l'eradicazione degli ulivi, è stato fermato, accogliendo le richieste di associazioni, cooperative, aziende vivaistiche pugliesi. Vedremo se nel corso della trasmissione riusciremo a tornarci. Stiamo cercando di rintracciare il commissario all'emergenza Xylella. Intanto saluto Marta Cagnola per parlare dei 25 anni di carriera di Ligabue, che si festeggiano proprio oggi. Vi ha portati ieri ad un evento pazzesco, a voi noi giornalisti, cioè a voi giornalisti che vi occupate di spettacolo. Marta. Sì, Simone, buongiorno. 250 ospiti, di cui 170 i giornalisti di oggi ma anche di ieri, quelli che l'hanno seguito in 25 anni di carriera, portati ieri sera a tarda ora, ormai buio, nella notte della campagna emiliana, buio, Campovolo, cioè quel piccolo aeroporto in cui lui ha fatto i suoi grandi concerti. Lasciati a bordo pista nel buio totale, si sono accese delle grandi luci con tutti i suoi album di tutta la sua carriera. Abbiamo percorso a piedi tutta la pista seguendo questa scia luminosa, e poi in Liga su un palco che ha suonato chitarra e voce i suoi brani più importanti, e ha annunciato che ci sarà un terzo Campovolo 19 settembre, quindi un terzo enorme evento. Gli altri erano stati da 120 e 150 mila spettatori, più o meno anche questo sarà così, ce ne sarebbero 2 milioni, hanno detto, sì, all'aeroporto, ma per ragioni di sicurezza non si può fare di più. Ligabue negli ultimi 10 anni ha venduto 2 milioni e 300 mila biglietti, insomma, non, una cifra enorme. Niente male. Allora Marta, io intanto ti ringrazio. Tu tra l'altro hai raccolto una voce di Ligabue che siamo riusciti a recuperare, e dunque ce la sentiamo. Nel frattempo io ti saluto, grazie per questa cronaca, ascoltiamo Ligabue. Guarda, io nel dire che mi sento appagato mi alleggerisco anche un po'. Nel senso che so che è difficile da usare quell'aggettivo, però è veramente la mia condizione. Io sto bene, godo ancora oggi della possibilità di vedere sotto di me su un palco la gratitudine di chi è lì. E loro che dicono che io in qualche modo gli ho insegnato alcune cose della vita, invece dovrebbero capire che ne hanno insegnate forse più loro a me che io a loro. Quindi a maggior ragione abbiamo motivi per festeggiare il 19 settembre. Ci fermiamo per il traffico, ci ritroviamo tra un attimo, ritorneremo sull'incendio che si è sviluppato questa notte a Fiumicino, parleremo di calcio con la Champions League e la prestazione mostruosa di Lionel Messi di ieri, parleremo ancora una volta di pensioni, a tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW, info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Xylella in Puglia, il TAR del Lazio ha bloccato la dichiarazione dello stato di emergenza e quindi anche il piano di intervento previsto per fronteggiare il rischio fitosanitario. Sarebbe stato un cortocircuito, forse di un frigorifero, a provocare l'incendio nell'aeroporto di Fiumicino. Il governo studia ipotesi per coprire il buco lasciato dalla sentenza della Consulta sulle pensioni. Camera e Senato aprono la discussione sull'abolizione dei vitalizi ai parlamentari condannati. Gran Bretagna, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, grande incertezza nei sondaggi. E prima di tornare dunque a Fiumicino e al tema delle pensioni, vogliamo fare un punto sul calcio con il nostro Dario Ricci, con questa semifinale di ieri e un gol di Lionel Messi, in particolare un gol oltre che la prestazione che ricorderemo decisamente a lungo. Dario. Eh sì, direi, Simone, ben ritrovati. Intanto che Ieri sera la Champions ha ritrovato uno dei suoi re, Lionel Messi, col secondo gol è già entrato nella leggenda e ha trovato anche la sua naturale favorita, perché il Barcellona che travolge il Bayern per 3-0 con quella prestazione diventa, oltre a conquistare di fatto la finale, a meno di cataclismi, diventa la grande favorita per chi tra Juventus e Real Madrid l'affronterà in quel di Berlino. Di fatto la lezione è una che mi viene da trarre da queste semifinali: non c'è spazio per l'imperfezione a questo livello. Sbagli un pallone dopo una partita coraggiosa, pur con tante assenze, come è capitato ieri al Bayern al 76esimo, ecco là, si aprono le dighe e il Barcellona ti travolge, no? Perché dal primo gol è arrivato subito il secondo e poi addirittura un altro errore, il 3-0 finale. Sbagli un pallone con Real Madrid e Cristiano Ronaldo ti fa un gol, come è capitato alla Juventus. Quindi questa è la lezione, speriamo che la tengano bene a mente anche il Napoli, che questa sera ospita il Dnipro, e la Fiorentina, che gioca sul difficilissimo campo del Siviglia, detentore del trofeo, nelle semifinali di Europa League. Qui l'obiettivo è il derby in finale il 27 maggio a Varsavia. Grazie Dario Ricci. Saluto Daniele Carabba, che ha avuto una giornata, una mattinata faticosa, che immagino prosegua, perché il direttore centrale del coordinamento aeroporti ENAC è responsabile della sala crisi dell'ENAC, che siamo, e torniamo naturalmente all'aeroporto di Fiumicino. Carabba, buongiorno e benvenuto, e grazie per aver ricavato un paio di minuti per noi. Dunque abbiamo letto, e probabilmente si è trattato di un cortocircuito quello che ha provocato un incendio nell'aeroporto di Fiumicino, no? Sì, questo sembra che sia, però ovviamente poi le cause precise saranno determinate dalle valutazioni tecniche dei vigili del fuoco quando la situazione, come dire, consentirà esattamente di avere tutti gli elementi. Quindi direi oggi l'aspetto forse più importante in questo momento è quello di riprotezione dei passeggeri, dei disagi sicuramente che in questo momento stanno vivendo. Le cause saranno accertate dopo, ovviamente. Quanti passeggeri ci sono in situazione, per così dire, problematica? Guardi, tenga conto che lo scalo di Fiumicino ha circa 150.000 passeggeri al giorno, che ovviamente si distribuiscono in tutta la giornata, quindi pensi come può essere in una situazione in cui l'aeroporto è fermo praticamente da stanotte. Adesso le posso dire che l'aeroporto ha riaperto da pochi minuti, nel senso che però c'è una capacità ridotta dell'aeroporto stesso, quindi non è più chiuso come prima. Più o meno in che percentuale, Carabba? Mi sa dare un'idea, un 30-40%, un 30-40%, mi diceva, non è pienamente operativo. Quanto è operativo? Al 30, al 40, al 50, al 60? Guardi, la limitazione che c'è in questo momento è tutta da verificare in base a quello che le compagnie aeree stanno facendo con tutte le loro risorse per rimettere a posto tutto l'operativo. Tenga conto che sono stati cancellati i voli, tanti aeroplani non sono arrivati da dove dovevano arrivare, quindi si stanno facendo tutti gli sforzi per garantire ai passeggeri che stanno in questo momento a Fiumicino di prendere i propri voli. E io non voglio dare dati che poi possono essere ovviamente... Senta, è tempo di ritorno alla normalità secondo lei, da quel che avete sott'occhio? Guardi, noi abbiamo un monitoraggio previsto per le prossime 6 ore, io penso che noi avremo sicuramente disagi perlomeno sino a domani, però questo, ripeto, è tutto da valutare rispetto a quello che tutti gli operatori stanno facendo per rimettere a posto l'aeroporto più importante d'Italia. Quindi sì, i disagi, guardi, questa è la cosa importante, perché è ovvio che in questo momento è quello che interessa anche più noi, ma anche ADR e tutti i vettori, compresa l'Italia, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei passeggeri. Quindi i disagi ci saranno sicuramente, il fatto che si sta lavorando non significa il problema è risolto. Ovviamente c'è un terminal che non è utilizzabile a Fiumicino, quindi si sta riproteggendo tutta l'operatività dell'aeroporto sugli altri terminal, ma questo considerando, ripeto, il numero di passeggeri che sono previsti in uno scalo come Fiumicino giornalmente, significa evidenti disagi. Certo, la ringrazio, grazie a Daniele Carabba, che immagino sentiremo altre volte nelle prossime ore, purtroppo per lui, per così dire. Torniamo sulla sentenza della Consulta come sapete, ha riguardato le pensioni e ha riguardato il blocco dell'adeguamento all'inflazione per il 2012 e il 2013, un blocco che la Corte Costituzionale ha dichiarato non compatibile con la nostra Carta fondamentale. Abbiamo chiesto un'opinione al costituzionalista Augusto Barbera, tanto sulla sentenza quanto su quel che ne segue. Sentiamo. Sentenza sbagliata per diversi motivi. In primo luogo perché contraddice una sentenza di pochissimi mesi fa, la sentenza numero 10 del 2015, quindi dall'inizio dell'anno, che si trattava in quel caso di una imposta, l'imposta su aziende petrolifere. E la Corte aveva riconosciuto la illegittimità dell'imposizione, però aveva detto non è possibile restituire quanto già è stato pagato perché questo inciderebbe sull'equilibrio di bilancio fissato all'articolo 81 della Costituzione. Questa sentenza invece riconosce la illegittimità del blocco, cosa su cui sarebbe peraltro da discutere, ma allo stesso tempo non mette limiti alla necessità di rimborsare per i mancati adeguamenti. Devo anche dire che la contraddizione è anche con altre sentenze precedenti, perché c'era stata una sentenza, non sto a indicare numeri, anni eccetera, ma del 2012, relativo ai docenti, ai personale docente, alla Guardia di Finanza, ai diplomatici, per i quali era stato previsto il blocco degli adeguamenti stipendiali. La Corte ha detto che per ragioni di equilibri finanziari queste misure erano da considerarsi legittime. Quindi abbiamo una giurisprudenza che, nonostante la Corte si richiami spesso al principio di ragionevolezza, che è irragionevole, perché ci sono diverse categorie che vengono trattate in modo diverso, i pensionati, i docenti, i diplomatici, i finanzieri, i contribuenti e i magistrati. C'è stata anche una decisione relativa ai magistrati che invece avevano visto dichiarato incostituzionale, come adesso per i pensionati, il blocco di alcuni adeguamenti automatici previsto per i magistrati stessi. Senta professore, tra l'altro saranno pendenti a breve probabilmente presso la Consulta altri due giudizi, sono quelli che riguardano il blocco degli stipendi del pubblico impiego che vanno avanti ormai dal 2010, quindi sono ormai 5 anni. A questo punto, vista la decisione della Corte sulla rivalutazione delle pensioni, siamo a rischio anche da quel lato. Dovrebbe contraddire una decisione che fu adottata nel 2013, più volte riferito appunto al personale non contrattualizzato. E certo, se segue l'orientamento assunto in maniera sbagliata, secondo me proprio in contrasto con principi costituzionali, se segue questa tendenza si dovrebbe arrivare anche alla stessa cosa, come dice lei. Io non conosco in realtà questi ricorsi, ma sì, dice che ci sono. Ahimè, aumentano i brividi. I sindacati li stanno preparando. Senta, professore, ma come potrebbe intervenire il governo? Perché c'è qualcuno che dice basterebbe un decreto legge a costo zero con il quale si rimotiva quello che secondo la Corte non è stato abbastanza motivato con il decreto Salva Italia, ossia la cosiddetta emergenza finanziaria, la situazione di difficoltà finanziaria del paese. Pensa che una soluzione di questo genere sia possibile o insomma bisogna... È una soluzione che qualcuno può anche aver letto tra le righe della Corte, perché uno degli argomenti che viene portato è la mancanza di motivazione nell'adottare questo provvedimento, a parte il fatto che motivazioni ce ne sono state a non finire, erano in rips, comprese le lacrime della ministra Fornero. E se fosse così vuol dire che la Corte Costituzionale si è ridotta a livello di un TAR. Come è noto, per i TAR se un provvedimento non è sufficientemente motivato si può di nuovo intervenire riadottando e motivando. Non oso pensare che questo sia ridotto alla Corte Costituzionale. E questa è l'intervista che abbiamo realizzato con Augusto Barbera, costituzionalista, sul tema delle pensioni. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ripristino della normalità a Fiumicino non prima di domani, dicono dall'ENAC. Sarebbe stato un cortocircuito, forse di un frigorifero, a provocare l'incendio nell'aeroporto. La Xylella in Puglia, il TAR dell'ACI ha bloccato la delibera dell'emergenza e quindi anche il piano per fronteggiarla dal punto di vista fitosanitario. Il governo sta studiando le ipotesi per coprire il buco lasciato dalla sentenza della consulta sulle pensioni. Il presidente della Corte dice che la politica può adottare delle misure. In Gran Bretagna, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, grande incertezza nei sondaggi. Da borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E torniamo alla cronaca italiana con un duro colpo al narcotraffico internazionale. Una maxi operazione anti-ndrangheta portata a termine dalla polizia in collaborazione con l'FBI tra Italia e Stati Uniti. Tonnellate di cocaina che da Sud America sbarcava nei porti statunitensi, nascosta nei container della frutta e veniva poi destinata al mercato americano ed europeo. A gestire il traffico l'alleanza tra le famiglie mafiose americane e quelle calabresi, alleanza che conferma il ruolo di leadership dell''ndrangheta nel mercato internazionale della droga. E a fare da base all'organizzazione c'era un ristorante nel Queens, a New York, gestito da un calabrese incensurato insieme alla moglie e al figlio. Sono questi i contorni della maxi operazione condotta dal Servizio Centrale Operativo della Polizia Italiana insieme all'FBI e all'Homeland Security. Una quindicina le persone fermate e arrestate tra l'Italia e gli Stati Uniti, una trentina gli indagati. I provvedimenti sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e dalla magistratura americana. L'inchiesta conferma il radicamento nel tessuto criminale americano delle 'ndrine calabresi. Sono i calabresi, ormai non più i siciliani, a farla da padroni. Il direttore del Servizio Centrale Operativo, Renato Cortese. Questa operazione è un'ulteriore conferma. La 'ndrangheta gioca un ruolo di primaria importanza, di primazia, non soltanto in Italia, ma riteniamo anche a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo a parlare di immigrazione. In attesa del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di lunedì, il tema è al centro di un incontro fra il Ministero dell'Interno e gli enti locali. La tensione è alta sul nodo dell'accoglienza. Una risoluzione basata sull'articolo 7 della Carta dell'ONU che fornisca una cornice internazionale di certezza dal punto di vista legale per identificare e distruggere le imbarcazioni dei trafficanti di migranti prima che partano. Questo è il contenuto della bozza che l'Italia presenterà con altri 4 paesi europei al Consiglio di Sicurezza dell'ONU lunedì prossimo. Intanto però bisogna risolvere l'emergenza di accoglienza nel territorio di queste persone. Nelle ultime settimane dal Viminale sono partite 2 circolari direttive a tutti i prefetti con la richiesta di individuare prima 6.500 posti, poi altri 9.000. L'obiettivo del Viminale è coinvolgere le regioni del nord. Per fare un esempio, su 85.000 stranieri ospitati nei centri governativi in Italia, il 21% si trova in Sicilia e appena il 4% in Veneto e il 9% in Lombardia. Ma è già arrivato il no della Valle d'Aosta ad accogliere 79 persone e il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, diserterà l'incontro di oggi pomeriggio fra il ministro dell'Interno Angelino Alfano, ANCI e Conferenza delle Regioni. Maroni, che da ministro dell'Interno nel 2011 aveva chiesto la stessa collaborazione alle regioni per l'accoglienza, ha detto: mi sembra una presa in giro, visto che il ministro dell'Interno ha già deciso come procedere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torna da noi Claudio Palomba, che è presidente del SIMPREF, l'associazione sindacale dei funzionari prefettizi, ed è anche prefetto di Rimini. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Bentornato. Grazie. Prefetto. Anche voi disertate un incontro col ministro Alfano questo pomeriggio? Era stamattina, ma già l'avevamo detto da tempo, indipendentemente dall'incontro di oggi, ma non solo, non abbiamo legato, il non incontro solo al problema dei migranti. Ci sono una serie di riforme che, se da un lato si richiede una presenza 24 ore, dall'altro sparisce la carriera con la riforma Madia. E abbiamo chiesto più volte al ministro e all'amministrazione un intervento, cosa che non si è avuta, e quindi sono anche queste altre le motivazioni. Da un lato si chiede un impegno al di fuori del comune con l'assunzione di responsabilità enorme sui territori da parte dei prefetti, con le difficoltà che voi stessi stavate dicendo, alcuni governatori o per esempio il presidente della regione Valle d'Aosta, che si verificano tra l'altro in un momento di prossime elezioni politiche, e dall'altro appunto arrivano circolari e sbarchi costantemente. Abbiamo qui un documento dei colleghi di Catania che non potranno essere presenti domani perché appunto non possono lasciare neanche un attimo. Cioè, allora, i colleghi intende quelli che lavorano in prefettura, il prefetto di Catania, non potranno essere all'incontro di domani perché l'emergenza... Partecipando ovviamente e condividendo l'iniziativa, non possono allontanarsi, ci hanno chiesto di rappresentare le loro ragioni in un documento che ci hanno mandato. E allora se da un lato appunto addirittura non si può lasciare, e immagino perché come dicevate voi le percentuali della Sicilia di permanenza e di sbarchi sono micidiali, e tra l'altro tenga presente che già abbiamo avuto nel 2015 un aumento esponenziale nei primi mesi e immaginiamo i mesi caldi che cosa potrà essere, dall'altro appunto si cancella una carriera e questo sì. Non lo accettiamo, insomma. Senta, prefetto, sul punto più specifico dell'immigrazione e della gestione di queste persone che poi arrivano sul nostro territorio e sul tema dell'accoglienza, come potete muovervi voi prefetti? Perché voi ricevete una circolare, no, dal ministro dell'Interno che vi dice dovete trovare 9.000 posti, come è successo l'altro giorno. E poi però magari vi trovate in regioni nelle quali i presidenti, cioè il massimo livello politico della regione, si rifiuta di accettarne. Come ci si muove in questo caso? Potete forzare la mano o no? Volendo, appunto, in una delle varie circolari che sono arrivate si può procedere a requisizioni oppure all'installazione di tendopoli, eccetera. Fino adesso il sistema ha retto, e lo dico con forza, ha retto unicamente per il senso di responsabilità che tanto i colleghi del Ministero, Dipartimento Libertà Civile, che la rete delle prefetture ha assicurato per garantire tranquillità ai territori in un momento di estrema difficoltà economica, ma ha retto unicamente per questo. Però diciamo i segnali sono abbastanza evidenti. Non so fino a che punto, nonostante ci siano degli sforzi diciamo enormi anche da parte del terzo settore, eccetera, noi abbiamo una percentuale di suddivisione su 8.000 comuni, 800 comuni hanno detto il loro sì. E allora c'è qualcosa che non funziona. L'accordo che era stato fatto a luglio scorso con gli enti locali, con l'ANCI, con in sede di conferenza Stato-Regioni, non ha funzionato. Allora ci sembra affrontando una situazione straordinaria con mezzi ordinari. Lei tenga presente, nonostante il servizio sia H24, che le prefetture, i prefetti, i prefettizi non stanno prendendo una risorsa economica in più. Questo ci tengo a dirlo. Sì. La ringrazio. Allora, grazie a Claudio Palomba per essere stato con noi, che appunto rappresenta un'organizzazione di funzionari prefettizi ed è anche il prefetto di Rimini. Se ricorderete, ne avevamo già parlato con lui. Il tema è appunto dare strumenti maggiori, sostengono i prefetti. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, senza dubbio. Traffico.